Altre domande? Posso chiedere una cosa Mara e Gianna? Vai, vai. Volevo sentire il vostro parere, volevo chiedervi, secondo voi, quale potrebbe essere la differenza soggettiva di sviluppo soggettivo di un'intelligenza artificiale fra una sua interazione con un metaverso puramente artificiale, elettronico, e invece un ambiente fisico, cioè un'interfaccia che permetta una sensorialità più orientata alla realtà. Anche perché prima Gianna ha parlato dell'aspetto psicologico e sociale dell'agire. No, io non ne ho parlato, però se vuoi, No, nel senso soggettivo, in che senso? Cioè, vuol dire, tu hai detto, l'impatto sull'evoluzione a livello soggettivo. per semplificare, in questo momento ci stiamo concentrando, insomma c'è una grossa attenzione verso lo sviluppo e le eventuali ripercussioni di uno sviluppo di un'AGI. E volevo chiedervi, secondo voi, quali possono essere le differenze di uno sviluppo dell'AGI se viene posta in un ambiente puramente virtuale, come può essere un metaverso, piuttosto che un'AGI che viene, a cui vengono insegnate la fisicità del mondo reale? Ok, la mia opinione è questa, tolto che l'AGI nel senso singolarista stretto non sappiamo che cosa sia, e quindi facciamo sempre proiezione di quello che desideriamo possa essere l'intelligenza artificiale a un certo livello di sviluppo. Sicuramente io credo che attualmente quello che possiamo dire è che sicuramente i mondi virtuali sono uno dei luoghi ideali dove far crescere, tra virgolette, in una logica appunto evolutiva. Quindi con discorsi anche legati a ne reti neurali, ma non è così facile mettere in relazione il sistema nervoso vero con le reti neurali. Io credo che i mondi virtuali siano un ambito perfetto, ideale per far crescere l'intelligenza artificiale, però chiaramente è sempre una simulazione. Un altro discorso è la capacità di produrre cognizione di fronte a un mondo che non è costruito, ma è l'intelligenza artificiale stessa che costruisce il mondo, è lì che è la sfida. Però, nel mentre, come step per arrivare poi a questo punto, ed è quello che praticamente si può fare, si sta facendo oggi, l'utilizzare questa approssimazione determinata dell'ambiente reale appunto con un mondo virtuale è sicuramente utilissimo. Quindi a questo punto molto concretamente tu vuoi far evolvere dal punto di vista, che ne so, di comunicazione, di capacità relazionali un'intelligenza artificiale la inserisci in Second Life, per esempio, un luogo virtuale a caso, e sicuramente ci possono essere presupposti per far evolvere l'intelligenza, tra virgolette, di questo sistema. Più in là, sinceramente, non riesco ad andare. Non so se Sì, si è capito qualche cosa.